already know the answer. You are a disgrace. 野蛮的野中友好协会主席加迈尔。Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Hello, I'd like to vote for president, governor, and anything that will take money away from our parks and libraries. Use machine number. C'è talmente tanta voglia di votare che anche Homer Simpson va alle urne. Se riesce a entrarci, Ecco, è entrato. Voto telematico. Ooh, one of those electronic voting dealies. One vote for McCain. Thank you. Voleva votare per Obama lui. No, I want to vote for Obama. Two votes for McCain. No. Come on, it's time for a change. Three votes for McCain. No, no, no. Six votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. Povero Homer. È stato appena risucchiato dalla macchina elettronica per il voto a Springfield, Illinois. Dice: sarebbe una vergogna che una cosa del genere capitasse in America. Figuriamoci se capitasse in Ohio, lo stato vicino all'Illinois, naturalmente lo stato concorrente di Springfield, dove vivono i Simpson, perché anche i Simpson hanno deciso che è ora di occuparsi di elezioni. L'hanno fatto con questo divertente cartoon in cui Homer prova a votare Obama, però la macchina capisce sempre McCain. Lui vota per sei volte per Obama e quello si prende sei voti per McCain, tant'è vero che il sesto voto viene dato direttamente a President McCain. Beati loro che hanno voglia di scherzare. La campagna elettorale, invece di scherzare, sembra in queste ore non avere nessuna voglia, per una serie di motivi. Prima di tutto dei sondaggi che danno indicazioni precise riguardo alla corsa per la Casa Bianca. Ci sono dai 5 agli 8 punti di vantaggio per Barack Obama, con un trend che sembra a crescere, e con una campagna repubblicana, una campagna McCain preoccupatissima per l'andamento delle cose. Poi siamo a poco più di 24 ore dal secondo dibattito presidenziale, quello previsto a Nashville, Tennessee, a casa di Al Gore, uno che di come si perdono i dibattiti ne sa qualcosa, avrebbe molto da raccontare. E McCain e Obama a questo giro si trovano per parlare di economia, e forse, come dire, è un tema piuttosto caldo, no? Per un confronto che questa volta rischia di essere veramente senza quartiere, anche tanto più dal momento che McCain, con il suo stile un po' scostante, no? del primo confronto, in un certo senso ha voluto accentuare una differenza che Obama in quella occasione in Mississippi, alla Università del Mississippi, Ole Miss, a Oxford, Mississippi, provò a contrastare con così una educata quasi sudditanza, gentilezza d'animo. Ma sarà lo stesso domani? I segni dicono di no. Perché del resto gente bene informata ci aveva avvisato e ci aveva detto: guarda che la campagna, per quanto cavalleresca, generosa, giocata su termini di signorilità, poi alla fine finisce sempre per essere sporca, dirty work, dirty tricks. E siamo arrivati al momento degli scherzetti sporchi, degli attacchi a tradimento. È stato detto chiaro e tondo, senza vergogna, senza pudore, e forse anche con una sincerità piuttosto inusitata, insomma, per questi scenari, dall'accampamento di John McCain. Hanno detto: guardate che da adesso in poi non baderemo più a sparare al bersaglio grosso, ovvero gli attacchi diventeranno personali. Non è un caso che sia in corso, affidata alla, così un po' la passionaria di questa campagna, ovvero a Sarah Palin, una controffensiva per connettere la persona di Barack Obama, anche in anni non sospetti, addirittura quando era un ragazzino, con personaggi pericolosi di tutti gli ordini e i gradi. Tra questi vanno enumerati sicuramente William Ayers, che è stato un weatherman, un weather underground, terroristi un po' situazionisti anni 70, facevano attentati finti, progetti artistici di attentati, alcuni loro finirono anche in gattabuia per questo motivo, ma in realtà non ebbero mai delle vere e proprie risultanze pratiche in questi loro happening, che più che altro erano queste provocazioni contro il Pentagono in termini e in tempi di puro pacifismo. Ebbene, sembrerebbe che quando Obama era piccolo ci sia stato un qualche contatto, uno struscio, così con questo William Ayers, e Sarah Palin, forse un po' faticosamente, affaticata lei stessa, ha provato a tendere il filo rosso. Allora, è vero forse quello che dice la copertina di Newsweek, appena arrivato nelle edicole americane, la vedremo anche in Europa, anzi no, in Europa no, perché la copertina Newsweek International è diversa, quindi guardatela su internet, è molto divertente, c'è Sara in primissimo piano con i suoi occhiali da vista, che ormai sono diventati un vero e proprio simbolo di stile, no? Simbolo di successo, sono i Kawasaki, i famosi Kawasaki di Sara Palin, con un bel sorriso ma uno strillo accanto, che secondo me questo sorriso glielo farà passare subito. Infatti lo strillo è: lei è una del popolo, aperta parentesi, e questo è il problema. Insomma, c'è aria di guai, c'è anche aria di coltelli, c'è aria forse perfino di schiaffi, insomma, naturalmente mediaticamente parlando, nella vigilia di questo dibattito di Nashville. Vi raccontavamo di Al Gore, uno che per l'appunto provò nel 2000 a fronteggiare l'allora nascente stella di George W. Bush, proprio facendo un po' lo sdegnoso, no? Lui, reduce da 8 anni di vicepresidenza, con tutti i favori dalla parte sua nei confronti di Bush, nel corso dei dibattiti tenne un po' lo stesso atteggiamento che ha tenuto McCain nel primo dibattito: non lo guardava, lo considerava poco, andava dritto per la sua strada, parlava direttamente agli americani, ma il contendente non lo considerava, gli andò malissimo. Vedremo se McCain nel secondo dibattito finalmente proverà a pronunciare il nome del suo avversario, cosa che non ha fatto nel primo, che invece il suo avversario ripetutamente, no, ho provato a chiamarlo, a coinvolgerlo, lo chiamava a un certo punto addirittura John. Ma quale John? Per concludere, nella vigilia di questa giornata importante da un punto di vista politico, se è vero che 70 milioni di americani si sono sciroppati il dibattito tra i vice, che poi non è stato proprio uno spettacolo di altissima politica, però era divertente dal punto di vista umano, e questa è un'elezione che si vive dal punto di vista umano. 40 milioni avevano visto il primo dibattito tra McCain e Obama. Per domani le attese di share, di audience, sono altissime, anche perché si parlerà essenzialmente di quattrini americani. Comunque l'ultima parola l'ha detta poche ore fa Karl Rove, uno che la sa più lunga di tutti, è l'uomo che ha condotto alla vittoria 2 campagne George W. Bush, e che si dice anche in occasione di questa campagna John McCain lo zampino ce l'ha messo, ma non in prima persona, ha mandato qualcuno dei suoi, ha dato alcune indicazioni di massima, ma poi è rimasto fuori, fa il commentatore per Fox, pubblica così i suoi oracoli, diciamo, sul suo frequentatissimo e interessante sito, che è rove.com, rove.com, e ha appena pubblicato una previsione tutt'altro che incoraggiante per i repubblicani. Dice che secondo lui la campagna di Obama sta andando molto bene, avrebbe secondo i suoi calcoli già conseguito il magic number, il numero magico, 270 voti elettorali necessari per vincere la Casa Bianca. Ne avrebbe secondo lui 273 dalla parte sua, avrebbe i voti di tutti gli stati vinti da John Kerry, più alcune altre cosette di un certo peso, tipo la Florida, probabilmente l'Ohio, probabilmente la Pennsylvania, sicuramente il Michigan, dove ha già sbaraccato, si è già tolto di mezzo John McCain e i suoi, hanno alzato bandiera bianca, hanno detto che da quelle parti questa volta non si vince, nonostante la crisi economica, o forse proprio a causa della crisi economica. I discorsi proposti da John McCain non hanno funzionato, anche se fino all'ultimo di tasse ha provato a parlare. Sentite ad esempio questo spot. Who's Barack Obama? First, Obama attacked McCain, then said, We've got the long-term fundamentals that will really make sure this economy grows. Strong fundamentals? Is Obama saying McCain's right? Or is Obama saying his own attacks are shameless? Either way, Obama's a hypocrite. Ipocrita non è una parolina da poco, vi dicevo, il gioco si fa pesante. Insomma, Barack Obama dice che le fondamenta dell'economia americana sono sane o no, ci fa o ci marcia, è sincero o segue l'onda, è un ipocrita. Questo è il tono di cui si è rivestita la campagna elettorale nelle ultime ore con, ripeto, una dichiarazione di guerra espressa a chiare lettere, di guerra naturalmente politica, di voglia di aggressività da parte del Gridlock Party, dei repubblicani americani. Tutto ciò confluisce verso il dibattito di domani sera. Staremo a vedere se John McCain saprà per una volta non essere, no, quel Mr. Past, signor passato, come l'ha chiamato un famoso editorialista del New York Times, mettendolo al passato rispetto a Sarah Palin, che nonostante tutto sarebbe la post-politica conservatrice, ma però attuale, che parla alla gente. Vediamo se John McCain riuscirà a parlare alla gente proprio da quel posto un po' magico che è Nashville, Tennessee. Abbiamo messo un po' a contrasto, sono i Rascals, parlano di grooving on a Sunday afternoon, in pratica di stare lì a godersela una domenica pomeriggio. Qui invece siamo in pieno bollore elettorale. Pensate che dallo staff di Obama hanno già fatto sapere che se quelli di McCain andranno avanti con questa tattica della connessione tra Obama e delle persone cattive, diciamo così, come il faccendiere Tony Redsco o come questo vecchio terrorista così un po' tramontato come William Myers, loro allora spareranno, suoneranno le loro campane o suoneranno le loro trombe, non so. Di fatto è già saltata fuori una connessione di McCain addirittura con il Watergate, pensate dove siamo andati a finire, o anche con i Keating Five, quelli all'origine della recessione americana degli anni 80, quando la famosa Keating Saving and Loans, società all'epoca di grande prestigio, crollò, accendendo la miccia per la crisi economica anni 80. Insomma, i fucili sono belli spianati a tutte e due le parti, a tutte e due le trincee. Prima pagina. Quando il gioco si fa duro, no? E allora veniamo rapidamente alle notizie che arrivano dalla Cina. Abbiamo sempre questo canestro delle notizie sul latte contaminato da cui pescare a piacimento. Allora, è di oggi la notizia che le autorità cinesi hanno arrestato altre 6 persone, quindi si ingrossa lo scandalo e si ingrossano anche le operazioni di polizia. Gli arresti sono avvenuti a Onlot, che è nella Mongolia interna, che è una provincia in realtà del nord della Cina. Ieri a Hong Kong sono stati tra l'altro rilevati altri alti livelli di melamina in 2 cioccolate della britannica Cadbury. Avevamo già parlato di questo colosso del cioccolato e non solo, che era finito nel marasma, insomma, nel calderone di questo problema del latte contaminato. E in questo caso si tratta di cioccolata prodotta nella fabbrica della Cadbury di Pechino. E intanto anche l'Iran, attraverso il suo Ministero della Salute, ha imposto il divieto totale di importare e di vendere tutti gli alimenti cinesi a base di latte. Direi che siamo di fronte ad un danno soprattutto d'immagine, ma anche economico, pazzesco, planetario per la Cina post-olimpica. possiamo alleggerire un attimo il tono sulla Cina, raccontando invece di cosa sta accadendo su un altro fronte, che è quello delle macchine, le autovetture, che sono sempre più diffuse in Cina. Adesso si potrà anche farsi la targa a piacimento, come viene poi come in California, come allora, nei ci sono già dei divieti, per esempio non si può dare il nome UFO alla propria targa, né Sex 001 né FBI 007 o cose di questo genere. Beh, neanche 007. Però insomma, dopo 6 anni di divieti, il governo di Pechino, il governo comunale di Pechino, ha deciso di permettere nuovamente alle macchine di avere targhe un po' più personalizzate, un po' più particolari. C'è già stata la corsa soprattutto per accaparrarsi i numeri fortunati, che sono l'8, che abbiamo imparato a conoscere dall'8-8-2008, giorno d'inizio delle Olimpiadi di Pechino. Poi il 6, che invece è considerato il numero della tranquillità, e il 9, che invece è il numero della eternità. Ma niente 007. Poi ci sono invece dei numeri funesti, o comunque che portano male, come il 3 e il 4, che sono abbinati a due concetti piuttosto cupi, cioè scomparire e morire. Quindi in quel caso è meglio non avere targa con il 3 e il 4 dentro. Dunque, invece passiamo a un altro argomento, e abbiamo anche un ospite in linea per commentarlo insieme, perché alla fine l'hanno fatto il referendum a Vicenza sul futuro dell'aeroporto Dal Molin. È stato fatto contro il parere del Consiglio di Stato, contro il parere di tutti, senza nessuna autorizzazione, senza nessun peso significativo dal punto di vista ufficiale, una vera e propria consultazione nel senso più stretto della parola, che però ha visto la partecipazione di ben 24.094 cittadini, pari al 28 e rotti degli aventi diritto, e con una percentuale altissima, il 95% bulgara. Circa bulgara di votanti, che hanno detto che Dal Molin deve restare a Vicenza e non deve andare agli americani. Ma però chiamiamo in causa Antonino Padovese del Corriere Veneto, che abbiamo già avuto ospite nei giorni scorsi, per sentire un po' com'è che alla fine si è fatto e che significato la città ha dato a tutto ciò. Antonino, pronto? Sì, buon pomeriggio. Sì, alla fine, come avete detto voi, si è fatto questo referendum. È stata una consultazione sostanzialmente autogestita, perché non si è votato all'interno delle sezioni elettorali, ma nei gazebi che sono stati allestiti davanti alle sezioni stesse. Chiaramente non si poteva andare a votare in una sede ufficiale contro il parere del Consiglio di Stato, che sconfessava la decisione presa dall'amministrazione comunale di organizzare questa consultazione. E come hai detto tu, i numeri comunque sono importanti. Sono andati in tanti, certo. Sì, quasi un cittadino su 3 degli aventi diritto. Vicenza ha circa 100.000 abitanti, quindi 84.000 le persone che potevano votare si sono presentati in 24.000, e poi chiaramente quelli che si sono presentati hanno votato no, perché chi non voleva questa consultazione si è chiaramente rimasto a casa. E oggi, a distanza di 24 ore dopo, Variati parla di un successo e di un messaggio che lui consegnerà al governo e agli americani, a dire: volete costruire la base lo stesso? Sì, ma tenete presente che un cittadino su 3 non la vuole. Questo lo dovete tenere presente in tutte le tappe di costruzione della base. E poi è andato ancora giù più pesante, a dire: non vorrei che nei prossimi anni Vicenza potrebbe diventare addirittura la capitale europea della protesta, perché verrebbe costruita una base in città contro il parere dei cittadini. Quindi un significato in un certo senso nell'aria in città, nell'atmosfera in città, questo referendum l'ha assunto alla fine? Sì, intanto l'ha assunta, perché poi alla fine è stato deciso comunque di farlo, certo in maniera non ufficiale, con dei gazebi. Ci sono stati 500 volontari, però il fatto stesso che il sindaco l'abbia annunciato con la fascia tricolore addosso nel corso della manifestazione organizzata la sera del rifiuto del Consiglio di Stato, il fatto che lui sia andato a votare e che comunque il giorno dopo, cioè questa mattina, abbia presentato i risultati come successo in conferenza stampa, lascia intendere questo, tanto che alcuni comitato favorevole alla base gli hanno chiesto chiaramente le dimissioni, perché Variati in questo caso non si sarebbe comportato come una persona in modo equanime, come un sindaco richiede. Ecco Antonino, per concludere, da parte degli americani il consueto silenzio. Non c'è un cenno. Aspettano gli eventi e le sensazioni da questo punto di vista? Ma le sensazioni sono quelle della settimana scorsa. Il referendum che poi è stato bocciato dal Consiglio di Stato già aveva poco valore perché avrebbe chiesto ai cittadini se a loro andava bene che il Comune attivasse la procedura per acquistare l'area previa sdevianizzazione. Questo era il quesito della scorsa settimana con il referendum ufficiale. Ora che il referendum non è più ufficiale, rimane diciamo una consultazione a cui hanno partecipato coloro che sono già fermamente contrari alla base. Però chiaramente gli americani si fanno forti della firma, quindi certo, del rapporto con il governo e del fatto che anche il commissario del governo, cioè Paolo Costa, ha liquidato questo referendum come un sondaggio e quindi come nulla di ufficiale. Antonino, scusami, una curiosità, ma non c'è il rischio che alla lunga questo referendum possa procurare più danni che benefici, cioè spaccare ulteriormente la città su una questione capitale per Vicenza e tutta la provincia come quella della base americana? Ma forse sì, perché comunque questo referendum è stato voluto, portato avanti da un sindaco che si è messo quasi come capopopolo, insomma, e quindi questo potrebbe provocare ulteriori danni anche rispetto, come ne parlavamo l'altra settimana, a tutta una serie di opere accessorie che il governo stava pensando di fare, come completamento di tangenziale o altre attrezzature, in compensazione alla costruzione di una base nel territorio comunale di Vicenza. Va bene, grazie Antonino Padovesi, naturalmente la questione resta aperta, il messaggio dai vicentini comunque è stato espresso. Under the bride, under the groom, under the sunny honeymoon, under the season, and that's the reason for making whoopee. Lot of shoes, lot of rides. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing for me, whoopee. It's your little love nest down where the roses swing. Picture that same sweet love nest, that ain't what the years can bring. He's washing dishes, he's so ambitious, he even shows. So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Come vedete rilanciamo laddove dopo insomma parlare in queste ore, perché la questione è calda, l'argomento è grosso, però non lo facciamo più da soli, abbiamo un ospite in studio, un giornalista del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buonasera. Conoscitore degli Stati Uniti, adesso capiremo come e perché, con una passione e anche una partecipazione alle questioni elettorali americane, sia professionale ma mi sembra di capire anche emotiva, in città a Roma oggi però per presentare il suo nuovo libro, si chiama Il sogno incompiuto, uomini e storie di Israele. Tra l'altro la presentazione, per chi ne vuole prendere nota, è proprio tra poche ore, tra due ore, alle 6:30 all'Hotel Nazionale, con Toni Capuozzo, Arrigo Levi e Andrea Riccardi. Mi dice in due parole una piccola scheda di questo libro, tanto per suggerire, far venire voglia? Il fatto che appunto che Israele quest'anno compiuto 60 anni di esistenza, è un paese di grande successo, è l'unica democrazia della regione, è l'unica economia occidentale, perché quella di Israele è un'economia occidentale che funzioni, e ciò nonostante non ha frontiere. 60 anni dopo ancora non ha frontiere certe, perché finché non esiste lo Stato palestinese non possono esistere frontiere certe di Israele. Il tuo titolo non è ottimista, mi sembra di capire. No, non necessariamente. Non ci vuole molto per realizzare un sogno, basta compierlo, basta imparare dagli errori commessi in questi 60 anni. Va bene, passiamo al cuore della nostra trasmissione di oggi, questa elezione che ormai ha cominciato il conto alla rovescia sotto il mese. Ormai lavoriamo a base di settimane, lavoriamo a base di dibattiti. Fra 24 ore ne va in scena uno che rischia di paralizzare, di ipnotizzare l'America, perché si parlerà di economia, e qui arrivano le breaking news che parlano di un Dow Jones sceso di 300 punti, insomma di una America che cerca soluzioni ma stenta a trovarle. Immaginiamo quanto il dibattito di domani possa attirare l'attenzione dei media e del pubblico, e la tua attenzione in particolare la attira, nel senso che ti aspetti di sentir pronunciare dai due candidati in un'occasione come questa, il candidato che si siede lì 90 minuti, 45 per uno, per parlare di economia e di un'economia da salvare. Che cosa riesci così a prevedere? Che cosa ti aspetti o ti aspetterai quando ti siedi in poltrona? No, mi aspetto che indipendentemente dalle formule che i due candidati esprimano per uscire da questa crisi finanziaria ed economica, ammesso che esistano delle formule, che uno dei due abbia una formula buona, se la questione rimane sull'economia, sulla crisi finanziaria, credo che Barack Obama vinca, come si dice, al Giro d'Italia, come un ciclista che arriva al traguardo con le mani alzate dal manubrio, perché comunque McCain, anche se fosse se diventasse un improvviso Keynes, è troppo identificato in economia con l'eredità di 8 anni mostruosi, con tutto ciò che sta andando male. Quindi credo che qualsiasi cosa dicano, la gente sia così, come vedi gli ultimi dati del Dow Jones, la gente è così devastata che vuole cambiare, al punto da non rendersi nemmeno più, da non accorgersi più nemmeno che l'altro, che quello per cui cambieranno è nero, che è una rivoluzione, la rivoluzione, la crisi economica ci sta facendo dimenticare che forse gli Stati Uniti stanno per eleggere il primo presidente degli Stati Uniti nero, un paese che ancora non ha risolto la grande questione. Ma questo è molto interessante, tu dici che la necessità insomma fa virtù, veramente? Beh, in un certo senso forse sì, tutte quelle opposizioni che forse si sarebbero potute trovare negli Stati Uniti riguardo a un presidente nero, cattolico, una donna, sono state le guerre, le crisi internazionali, il ruolo degli Stati Uniti nel mondo sono stati totalmente sostituiti dall'emergenza delle emergenze, il rischio di un altro 29. E credo che questo, come dire, possa essere utile anche in questo senso a Obama, possa essere molto utile restare sul terreno della crisi finanziaria. Non credo che poi l'11 di gennaio 2009, quando dopo il giuramento sul Campidoglio, Obama sarà in grado di cambiare le cose. Però se la finanza, come è tutta roba di carta, quindi anche tutta roba di immaginazione, di senso, di speranza, di sensazioni, può anche darsi che solo la sensazione di un cambio possa cambiare in qualche modo lo spirito che regola le cose curiose di Wall Street. Ma poi non hai avuto la sensazione, come stavamo dicendo poco fa, che bene o male una volta presa la nomination, Barack Obama sia stato capace di esprimere qualcosa di più di quel forte richiamo passionale, di quella fascinazione così un po' differenziata, no, dalla politica tradizionale, sulla base della quale, in groppa alla quale in realtà è arrivato fin qui? Ma poi, una volta insediatosi come nominato democratico, insomma, in un'area progressista sicuramente che si andava ammorbidendo giorno per giorno, però poi abbia cominciato ad esprimere dei programmi, forse quelle accuse, no, di vuotezza, di candidato di pura immagine, oggi sono un po' meno, no, sensate di 2 o 3 mesi fa. Sì, ora non vorrei sembrare di parte, perché poi non è la mia, non no, è la no, nostra ma è elezione. Un'osservazione del personaggio. Perché, no, anche perché poi credo che McCain sarebbe comunque di gran lunga migliore di quello che è stato George Bush. Certo, certo che Obama è una rivoluzione sotto tutti i punti di vista, non solo perché un candidato nero. Io il mio primo incontro personale, intendo dire, non, sfortunatamente non un'intervista, ma la prima volta che ho sentito Obama è stato alla convention democratica di 4 anni fa a Boston, e credo che dopo il discorso di Kerry, forse anche più del discorso, certo, di Kerry, il discorso di Obama fu quello che più colpì, questa grande capacità di quest'uomo di dire delle cose nuove. E anche quando ci fu l'unica vera crisi riguardo alla sua negritudine, quando venne accusato, il suo reverendo venne accusato, certo, esatto. E la risposta che lui diede fu una risposta così nuova, così moderna, così innovatrice per la società, per il politicamente corretto della società americana, che ha una forza rivoluzionaria in ogni senso. Lui è stato anche capace durante questa campagna, soprattutto dopo aver vinto le primarie democratiche, di anche di, come dire, di reinterpretarsi come moderato, come una persona più di centro, non il liberal. Non dimentichiamo che 4 anni fa fu un liberal ad essere a subire una devastante sconfitta. E lui ha saputo occupare anche una posizione al centro. All'inizio sembrava un po' impacciato, in realtà non è affatto impacciato. Credo che Obama non si sentirebbe impacciato in nessuna condizione politica, tanto è. Io non credo di ricordare, adesso non sono più un giovanotto, ma nemmeno così vecchio da ricordare, non so, Theodore Roosevelt. Però non credo che esista, non solo negli Stati Uniti, ma nel mondo, un uomo che abbia una capacità di attrarre quando parla come ce l'ha, e anche di dire cose, non solo attrarre, anche, non solo anche la sua reale bravura. Insomma, è un animale politico assoluto, quindi spero che anche, come visto che non ha mai governato effettivamente, che questa capacità animale della politica si esprimerà anche poi come presidente degli Stati Uniti. Ci sono molte cose da sistemare, probabilmente. Sì, ma va bene, con Ugo Tramballi ricominciamo a parlare tra poco, dopo le notizie del traffico. Tra l'altro voglio indagare un po' nei tuoi trascorsi nelle campagne politiche del passato, grandi storie forse da ascoltare, da raccontare. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for no. Stiamo ragionando, facendo anche qualche ipotesi, anche ricordando qualcosa che viene dal passato, con Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, conoscitore degli Stati Uniti e anche a riguardo spesso e volentieri professionalmente impegnato, con un libro in uscita che si chiama Il sogno incompiuto, un libro su Israele, esce da Tropea, viene presentato oggi a Roma. Però eravamo rimasti in sospeso, quindi sul filo di un possibile confronto tra questa campagna elettorale e altre campagne elettorali, Ugo, che ti è capitato di vedere, di seguire. Addirittura adesso stavamo rievocando la formidabile, se si può dire così, apparizione all'orizzonte di un personaggio come Ronald Reagan, che non è che all'inizio fosse quello che poi oggi è unanimemente riconosciuto, no? No, certo, come giornalista ho seguito le elezioni di 4 anni fa e ho seguito la fase finale di John Kerry, quindi sono stato passato la nottata in Copley Square a Boston, e fu molto triste, ma ho cominciato a capire che le cose andavano male quando ho visto sul palco a cantare personaggi della mia giovinezza californiana, Janis Joplin. C'era qualcosa che non andava se i liberal del 2004 si presentavano sul palco vecchi cantanti della mia giovinezza californiana. Ma come studente, così, avevo partecipato in California a delle anche così a delle iniziative politiche a favore di Ted Kennedy, ma io non ho portato molto fortuna al Partito Democratico, perché quando Ted Kennedy praticamente, cioè, ho cominciato con i miei amici che lavoravano negli uffici del Partito Democratico, mi hanno così coinvolto, hanno dato dei manifesti da consegnare, quando proprio poi è scoppiata lo scandalo di Ted Kennedy a Ciappaquiddick, e ricordo che qualcuno disse: sapete, se fallisce la possibile candidatura democratica di Ted Kennedy, vinceranno i repubblicani e vincerà Ronald Reagan. E io mi misi a ridere, perché, essendo appassionato essendo un figlio della vittoria americana, quindi dei film, i film western da cowboy, mi ricordavo un cowboy un po' stupido, che era un attore mediocre. Beh, poi Ronald Reagan l'ho visto da giornalista, da corrispondente negli anni della perestroica, ero corrispondente a Mosca, quindi Reagan veniva spesso a Mosca e noi seguivamo spesso Gorbaciov negli Stati Uniti da Reagan. Beh, fu un grande presidente che era molto trinariciuto, ma che poi alla fine aiutò Gorbaciov fino a che fu possibile, per evitare il disastro, come del resto anche George Bush padre, vorrei sottolineare, ha salvato noi europei dei repubblicani, voglio dire, hanno salvato noi europei, certo, dalla terza guerra mondiale, perché erano repubblicani internazionalisti, non come i repubblicani che avevamo, certo, visto negli, certo, ultimi 8 anni. Ecco, però i democratici erano così un po' nei miei sogni, da tutti, come tutti i ragazzini, certo, la TVA, ecco, ma quella politica americana anni 70, descritto ormai anche con nostalgia da libri, cinema, film, come la possiamo differenziare da quella di oggi, anche con questi grandi impeti, no? Ma sai, non so, io venivo dall'Italia, dove solamente dire se tu non eri iscritto al PC o non eri dell'estrema sinistra, anche esprimere un valore come quello della resistenza non ti era possibile, certo, perché era un dibattito soffocato, un dibattito impossibile. Arrivavi in America e vedevi questi campus che sono delle cose che solo guardarli ti faceva venire voglia di laurearti, certo, con 110. Il famoso momento magico della vita. E poi c'era questo spirito che è certamente molto diverso da quello che a partire dagli anni 80 in poi ho verificato, uno spirito quasi comeinista, vietato guardare le ragazze, vietato fumare, vietato farsi crescere i capelli, non perché lo fosse vietato, certo, ma perché l'atmosfera era diversa, quella dell'inizio degli anni 70 era molto più vitale, molto più divertente, ecco. Però non ho un ricordo precisissimo di quanto seria fosse quella politica, e non fosse invece una politica che nasceva dal cuore, dallo stomaco, dal fatto di essere ventenni e basta. Senti, un parere su, sto cercando, eccola qua, questa è la copertina di Newsweek appena uscita, ne parlavo poco fa in trasmissione, una copertina dedicata a Sarah Palin, che avrà sorriso quando l'ha vista, poi ha letto lo strillo e secondo me ha sorriso un po' meno, perché è una copertina molto, molto d'attacco, molto aggressiva, no? Dice è una del popolo e questo è il problema. Condividi questa copertina, che cosa ne pensi? Sì, un giornalista non dovrebbe cercare, soprattutto quando parla di elezioni che non riguardano il suo paese. Però questo pensa, un settimanale Newsweek. Questa che è una sbilancia. Mettevo le mani avanti, nel senso che secondo me Sarah Palin è una caricatura di una donna di destra. Infatti certe volte non distinguendo alle trasmissioni americane dove fanno appunto un po' di satira politica, non distingue più qual è la Palin vera e qual è la Palin finta, certo, perché la Palin vera supera. Finché non diventa vicepresidente degli Stati Uniti, è più esilarante della Palin trasformata. Io non voglio, mi rifiuto di credere che gli Stati Uniti, dopo 8 anni di amministrazione Bush, del vicepresidente, del segretario alla difesa che c'è stato fino a 2 anni fa, degli errori che sono stati commessi, delle cose che sono state dette, o siete con noi, siete contro di noi, che l'America che io conosco e che io amo, l'America che per me è cominciata con lo sbarco in Normandia per salvare il futuro democratico a me e ai miei figli, abbia ancora il coraggio di leggere un personaggio imbarazzante come esprime questo. Personaggi così, un fattore mediatico dunque. Io credo che sia stato un boomer anche per il Partito Repubblicano, perché lei ha semplicemente garantito alla vecchia destra del partito, quella trinariciuta, di estrema destra, quella che appunto veniva da Karl Rove, dal vecchio, che già comunque votava per il Partito Repubblicano. Il problema del Partito Repubblicano era quello di convincere gli altri a votare, certo, per una degna persona come McCain, perché quelli dell'estrema destra repubblicana già l'avrebbero comunque votato. Però oggi c'è questo divertente, anche crudele editoriale di Frank Rich sul New York Times, che dice sì va bene, stiamo qui tutti a criticare Sarah Palin, ma non vi rendete conto che Sarah Palin ha trasformato John McCain in Mr. Past, nel signor passato, perché forse nel bene o nel male questo suo successo, al di là dei suoi inciampi nelle interviste, e piace e fa rumore perché rappresenta qualcosa di contemporaneo. Che mi dici su questo? Ma credo che questo dovrebbe far riflettere gli americani, certo, noi europei, tutto il mondo occidentale, tutto il mondo, quel che resta del mondo democratico, perché George Bush, nonostante l'ambizione di espandere la democrazia nel mondo, l'ha ridotta. Ma noi ancora del ridotto democratico mondiale ci dovrebbe far riflettere sul significato della democrazia nel XXI secolo, la democrazia mediatica, la democrazia televisiva. Cioè, se Sarah Palin rappresenta il futuro, ma forse allora hanno ragione i cinesi, ha ragione la democrazia controllata dalla Cina, dove l'importante, ecco, è arricchirsi e poi eventualmente se ne riparla di democrazia. Cioè, mettiamola da parte e riparliamone come i cinesi fra 40 anni di democrazia. Ci dicono, caro Ugo, moltissimi messaggi, ma ormai è tardi. Siamo su Vicenza, per base americana Vicenza, perché non dite che la grande maggioranza è favorevole o indifferente alla base, oppure il sindaco di Vicenza gonfia i dati dei partecipanti, oppure il voto nei gazebo è truffaldino e inattendibile, oppure questo è per te, condivido le parole di Tramballi, ho letto The Audacity of Hope di Obama e quella è stata la mia sensazione, ti scrive Luigi da Pavia, o ancora Beppe da Bergamo, quando Obama perderà le elezioni, Tramballi come farà a presentarsi al microfono? Questa è una domanda diretta, ma penso che non sia questo il problema, ma gli interrogativi su una sconfitta di Obama sono naturalmente nell'alternativa che verrà presentata in sede elettorale. Ancora a Vicenza, il 72% dei cittadini accetta la base, sono troppo pochi. Se uno su tre è contro la base americana, vuol dire che 2/3 sono a favore. Va bene, abbiamo capito. Grazie a Ugo Tramballi, ospite oggi Jefferson Minghi. Io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi, l'indirizzo è Jefferson Minghi a radio24.it. Questa puntata la sentite in replica stasera alle 9, la diretta domani con le ultimissime sui dibattiti, sempre alle 4, qui da Radio 24. Yeah,